Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Bene, ormai le vacanze sono finite, ma io oggi voglio darmi un motivo in più per qualche weekend, per qualche, diciamo, gita fuori città. Oggi infatti faremo un itinerario un po' insolito, ma devo dire non per questo meno interessante. Andremo alla scoperta dei prodotti dei monasteri, dei conventi e delle abbazie. Ebbene, un tempo erano luoghi dove si producevano moltissime cose, soprattutto marmellate, miele, si produceva olio, frutti, ma anche medicine abbastanza importanti, come al monastero di Camaldoli, per esempio. Ma ci sono stati tanti altri luoghi molto importanti che nel tempo si sono così portati alla ribalta proprio per delle produzioni davvero di eccellenza. Ma andiamo a vedere se ancora oggi si produce, perché molto è cambiato e sicuramente molti monasteri hanno così dismesso la loro produzione, però c'è ancora così una buona quantità di questi luoghi dove suore, dove frati, dove monaci appunto continuano a coltivare dei prodotti di grandissima qualità. E allora iniziamo questo giro dalla provincia di Pisa. Andiamo al monastero cistercense di Val Serena, in provincia di Pisa. Buongiorno a Suor Paola Maria. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, nel vostro monastero voi producete nocino, se non erro. Sì, un nocino che di ricetta nostra, che lo produciamo da tanti anni, circa 40 anni. Ecco, voi avete le noci, quindi avete anche la materia prima. Le avevamo, perché adesso il nostro noceto è un po' dismesso, è un po' invecchiato, è un po' malato e quindi ci produce poco. Allora le noci le acquistiamo in questo momento all'abbazia delle Tre Fontane. Quindi un'altra abbazia? Sì, i nostri fratelli di Roma. Ah, quindi ecco, quindi c'è un collegamento, quindi avete, diciamo, messo in piedi una filiera. E i vostri confratelli di Roma hanno sicuramente molte noci, oppure è un noceto molto piccolo? No, è un noceto abbastanza grande, loro un tempo facevano il nocino, adesso il nocino loro non lo fanno più, fanno altri liquori e così le noci possono venderle a noi. Senta, Sor Paola, quindi c'è anche una trattativa di compravendita? Beh, sì, diciamo così. Quante bottiglie producete di nocino? Circa un 2000 all'anno, non di più, circa. Ecco, Sor Paola, ma c'è un segreto sulla vostra ricetta particolare rispetto, diciamo, alle altre bottiglie di nocino? Beh, le ricette sono varie del nocino, come lei sa. Il nostro è caratterizzato da un terminato aroma che appunto abbiamo deciso di mettere questa formula, è aromatizzato con sostanze naturali e dicono che è buono. Ecco, quante bottiglie, cioè quanto costa una bottiglia? Costa 13 euro, una bottiglia da 700 millilitri. Viene venduta presso di voi, quindi, oppure c'è anche qualche distributore che può avere queste bottiglie? Sì, la rivendita noi e molto vendiamo per corrispondenza. Poi abbiamo qualche distributore, i nostri fratelli delle Tre Fontane, l'abbazia di Vitorchiano, le nostre sorelle, e poi anche San Miniato a Firenze ha una rivendita e ci vende il vaccino. Ecco, un'ultima cosa, lei ha detto per corrispondenza, allora diciamo ai nostri radioascoltatori come qual è, c'è un indirizzo? Vendete online oppure vendete via posta? Dunque, vendiamo via posta. Online si può fare la prenotazione, la richiesta. C'è un sito che si chiama prodottivalserena.com. Perfetto. E c'è un'email, info@prodottivalserena.com. Bene, ringrazio Sor Paola Maria per le informazioni che ci ha dato del nocino del monastero cistercense di Val Serena in provincia di Pisa. Grazie, grazie. E ora dal nocino passiamo alla birra. Bene, è noto e credo conoscono tutti i nostri radioascoltatori la bravura dei monaci belgi sulle loro produzioni, anzi sono stati dei grandi maestri. Ebbene, in Italia esiste un monastero dove si produce una birra che io più volte ho sentito, di cui posso garantire che è eccellente e che, diciamo, hanno imparato dai loro confratelli belgi. Buongiorno a Padre Claudio. No. Siamo al monastero di Santi Pietro e Paola, località Cascinazza, Bucinasco, in provincia di Milano. Bene, Padre Claudio, allora voi siete stati in Belgio a imparare come fare la birra? Sì, perché quando abbiamo cercato qualche altra attività che integrasse il reddito agricolo, che era l'attività principale per i primi 20 anni del monastero, c'era stata suggerita l'idea della birra, che a dire il vero all'inizio ci sembrava un po' strana e impraticabile, però strada facendo si è dimostrata l'ipotesi più interessante. Allora siamo andati, abbiamo voluto confrontarci con la tradizione di quelle realtà monastiche che da secoli lavoravano con la birra, e quelle belghe, le birre belghe d'abbazia ci hanno particolarmente attratto. E così, un po' come nani sulle spalle dei giganti, abbiamo voluto imparare. Due di noi erano stati ospitati per un 40 giorni dall'abbazia di Westvleteren in Belgio, ma lì non ci interessava solo imparare una tecnica, ma anche un modo di vivere questo lavoro in armonia con la nostra vita benedettina. E quindi diciamo che questo esempio belga vi ha così vi ha portato... Vi ha contagiato. Ecco, non si può dire che la nostra sia una birra trappista, anzi loro ci tengono giustamente al loro marchio, alla loro ricetta. Noi abbiamo cercato di imparare un po' il procedimento produttivo, soprattutto di quelle abbazie che ancora mantengono un carattere artigianale, come Westvleteren e Hackel, per esempio. La nostra birra abbiamo voluto cercare di adattarla, questa era la sfida, alla sensibilità e al gusto italiano. Quindi non era semplicemente un trasporre un qualche cosa, ma un imparare, ma nello stesso tempo un creare qualche cosa. Ecco, padre Claudio, chi è il mastro birraio? Anzitutto sono i due confratelli, Fabrizio e Marco, che si erano recati appunto 3 anni fa in questa abbazia belga. Poi nel frattempo si è aggiunto padre Enrique e un altro giovane che adesso lavora, sono attualmente in 4 che lavorano nel birrificio. Quante birre, quante bottiglie producete all'anno? Ma il nostro obiettivo per questo inizio, tenga presente che abbiamo iniziato 1 anno e mezzo fa, è di arrivare per adesso alle 35.000 bottiglie annue, che non è una grandissima quantità, ma era una scelta anche per poter curare meglio la qualità, che per noi è una questione fondamentale, appunto, volendo fare proprio un prodotto. Sì, ho visto che comunque la vostra birra è distribuita anche in posti importanti, diciamo che ad Adamini, questa macelleria che si è trasformata anche in ristorante con punto vendita, diciamo che fa bella vista appunto la vostra birra. Ma volevo chiederle un'altra cosa importante, ci dà un po' la descrizione di questa birra? Allora, dal punto di vista, diciamo, delle caratteristiche, una birra con un grado alcolico contenuto 6,4, di colore chiaro ambrato, di facile bevibilità e digeribilità, e l'equilibrio delle componenti è accentuato da una luppolatura piuttosto leggera che rende la birra particolarmente amabile e dissetante, e che mette in evidenza le note aromatiche prodotte dalla fermentazione. Ecco, il luppolo da dove arriva? Luppolo è di origine belga, mentre i diversi tipi di malti sono italiani. Ho capito. Senta, padre, una battuta, magari anche divertente per i nostri radioascoltatori. Ma voi nel monastero la bevete, la assaggiate questa birra? Sì, l'abbiamo assaggiata e la assaggiamo, e anche per tenere sotto controllo. Per tenere sotto controllo la produzione. Senta, padre, questa birra è ottima anche da pasteggiare. Direi di sì, cioè i riscontri che abbiamo sia da ampie recensioni che troviamo, che si possono trovare su una rassegna stampa che c'è nel nostro sito. Ecco, dai, ci dica il sito. www.birracascinazza.it contiene una rassegna stampa con degli apprezzamenti anche di esperti molto incoraggianti. E poi un altro segnale importante è che, per esempio, attualmente la nostra birra si trova nella carta di più di 30 ristoranti di alto livello della città di Milano, questo grazie soprattutto all'azione del nostro miglior cliente, che è il grande Fabio Scarpiti. Bene, padre Claudio, io la ringrazio e devo dire, continuate a produrla a questo livello, perché sicuramente è una grandissima birra. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di monasteri, conventi, abbazie, ma soprattutto dei prodotti che arrivano da questi luoghi di preghiera, luoghi di meditazione, perché sicuramente da tempo, da sempre sono famosi appunto questi posti dove si producono cose molto interessanti, soprattutto da mangiare. Quindi abbiamo sentito ora la birra, addirittura, che è un fatto abbastanza anomalo per il panorama italiano, mentre sicuramente in Belgio è molto diffuso. Abbiamo sentito il nocino. Bene, ora facciamo, per così dire, un momento di stop, perché parleremo sempre di argomenti che riguardano, diciamo, questo mondo, Però parleremo del vino da messa, che, guardate un po', non viene prodotto né da monasteri, né da conventi, né da abbazie, né da monaci, né da suori, ma viene prodotto da un produttore privato. Buongiorno Roberto Bava. Buongiorno a voi. Titolare dell'azienda vitivinicola Bava. Bava, ci può spiegare cosa c'ha di particolare il vino da messa e quale caratteristiche ha? Perché voi lo producete sicuramente per la Chiesa e per il Vaticano, se non erro. Sì, abbiamo, diciamo, permesso, un'autorizzazione per produrlo che viene rilasciata dal vescovo di ogni diocesi, nel nostro caso quello di Casale Monferrato. Siamo in Monferrato. Noi siamo comunque produttori classici di vini, ecco, produciamo Barbera, Grignolini, Malvasia, eccetera. Il vino da messa ha una caratteristica tutta sua che oltre, diciamo, alle richieste dell'enologia e della legge sul vino ha anche un profilo da rispettare che è quello del diritto canonico e qui andiamo a complicare le cose, ecco. Diritto canonico sono 2000 anni che dice che questo vino deve essere puro, ma la purezza è un concetto da sviluppare, nel senso che il concetto di purezza vuol dire senza aggiunta di diciamo ingredienti che non siano provenienti dalla vitis vinifera, ma facciamo il caso, è un caso recente, della famosa barrique che ormai è imperversa. La barrique lascia dei tannini, no? Dei tannini che migliorano anche il vino in certe condizioni, è però un oggetto estraneo in qualche modo alla vite, e quindi ecco che in 2000 anni ci sono stati tutto questo profilo del vino che si è mantenuto puro, ma nel tempo è cambiato, e noi abbiamo costruito negli anni una ricerca anche su questo concetto che ci ha portati a produrre due vini in particolare, uno a base di moscato e uno a base di malvasia. Senta Bava, ma non è che andiamo verso il vino biodinamico, mi viene una battuta così? Sì, anche lì andiamo a toccare un altro concetto complesso e forse parallelo. Il vino per la legge canonica deve essere atto a diventare vino da messa, quindi questa purezza può anche coincidere con una biodinamicità. In realtà quello che succede è che un vino enologicamente cattivo, diciamo non dei migliori, potrebbe però essere adatto, certo. All'uso sacramentale. E quindi quello che serve molto al sacerdote nella scelta è la garanzia, cioè lui deve essere sicuro che deve essere fatto da suoi confratelli che implicitamente hanno un permesso, e quindi anche le suore, cioè si dà per scontato che eticamente non abbiano bisogno di permesso, oppure da un'azienda privata che abbia ottenuto attraverso anche analisi di vari tipi ufficiali la bolla. Questo permesso. Ecco, mi spieghi un secondo, come avviene la commercializzazione? Cioè lei produce questo vino e lei lo comprano direttamente le varie chiese, oppure c'è un passaggio intermedio? C'è una circolare anche che chiede che questo vino non entri in un uso anomalo, ecco, ci sono queste richieste da parte della Chiesa, ma di fatto c'è molto nel mercato vino da messa, che è un mercato molto criptico, molto, diciamo, diverso dal sistema, c'è molto il rapporto diretto, ecco. Ci possono essere giustamente dei distributori che spesso coincidono con i venditori più di candele che non di enoteca classica, ecco. Ma molto c'è il rapporto diretto, per esempio noi qui siamo in Piemonte, ma anche in Sicilia c'è molto l'uso di fare una mailing quindi alle varie parrocchie, eccetera, ed è un consumo molto diciamo leale, cioè molto fedele verso il fornitore. Capito. Quindi è un mercato abbastanza chiuso, direi. Senta, ma in Vaticano voi lo spedite direttamente, cioè diciamo che il vino con cui viene celebrata la messa in Vaticano, magari dal Papa anche, cioè arriva direttamente da voi? Ma premesso che insomma il Vaticano ha molte offerte di doni, insomma, quindi spesso cambia, eccetera, ma diciamo che noi forniamo regolarmente clienti in Vaticano, che non sono molti a quanto pare. Certo. Bene, Bava, io la ringrazio, grazie di questa così, di questa precisazione. Grazie, ripeto, Roberto Bava dell'azienda vinicola Bava Cocconato d'Asti, che produce ovviamente, come ha detto anche lui giustamente, altri ottimi vini oltre che questo da Messa. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo in un'abbazia in Liguria, andiamo all'abbazia di Santa Maria di Finalpia, a Finale Ligure. Parleremo con Maurizio Boiocchi. Buongiorno Boiocchi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Finalpia, sì. Benissimo. Finalpia, sì. A Finale Ligure, giusto? Sì. Esatto, sì. Ecco, allora, ci racconti un po' in questa abbazia, si produce miele, si producono anche altre cose o solo miele? Ma primariamente noi produciamo miele, abbiamo la miele di nostra produzione, abbiamo apiari stanziali per cercare di coprire le varie fioriture da qui fino all'Emilia. Una volta facevamo nomadismo, poi per altri motivi abbiamo arnie stanziali. Oltre a quello, chiaramente ci sono gli altri prodotti dell'indotto, che sono comunque la propoli, la pappa reale e il polline e la cera, che viene poi riutilizzata per le stesse arnie. Abbiamo anche una cereria che provvede a questo, praticamente sterilizzando la cera di opercolo o di favo che noi riusciamo a produrre, viene sterilizzata appunto e riprodotti ancora i fogli ceri, che vengono reimmessi appunto nel circolo, a ciclo continuo. È come volgarmente, come maiale, non si butta via niente, ecco, tra virgolette. Altri prodotti, comunque, abbiamo anche una linea di cosmetica, sempre con i prodotti dell'alveare. Da 2 anni a questa parte, in abbazia, c'è la sede di una distilleria che è stata acquisita dal Sassello, mantenendo lo stesso nome, però attualmente sotto la direzione qua dei monaci benedettini, e provvede la produzione e la commercializzazione appunto di derivati sia dal miele, il nostro punto di forza comunque della distilleria è la grappa al miele, poi abbiamo anche un infuso di erbe a malto del monaco e tanti altri prodotti che non vado a citare, altrimenti perderemo troppo tempo. Questo in generale è la nostra linea di produzione, ecco. Senta Boiocchi, ma lavorano direttamente i monaci benedettini sul miele? Padre Giovanni, poi io sono un laico insieme a altri collaboratori, ci occupiamo dell'azienda sotto la sua supervisione. È una situazione un po' anomala, se vogliamo, anche perché comunque dall'indagine che lei sta facendo potrebbe risultare, e risulta, che comunque ci sono sempre meno vocazioni, sempre meno ricambi generazionali. Certo. Quindi veniamo utilizzati noi laici, ecco, diciamo così, da questo punto di vista. Ripeto, direttamente c'è solo Don Giovanni che si occupa dell'azienda come supervisore sia di distilleria e di apiario, e abbiamo anche un'erboristeria di fianco all'abbazia qui alla Finalpia sempre. Senta, ma voi come vendete? Vendete direttamente? Avete dei distributori? Sì. Direttamente abbiamo un punto vendita, abbiamo una portineria dell'abbazia che ha funzione appunto di portineria e punto vendita diretto dei nostri prodotti, e gli stessi prodotti vengono poi venduti ugualmente quindi in piazza dell'abbazia e selezionando i prodotti di altre aziende per integrare ovviamente la nostra produzione e la nostra commercializzazione. Voi vendete anche direttamente online? Anche online, sì, abbiamo un sito, se posso citarlo. Certo. Apiario Finale. Sì. iscalinet.it. E un'ultima cosa volevo chiedere, cioè in questa abbazia sicuramente ci sarà una mensa, ovviamente. E no. No, non c'è una mensa. Benissimo. No, la mensa, cioè qui c'è c'è una cuoca che si occupa della ristorazione dei monaci e degli eventuali ospiti. In più, sempre annesso nell'abbazia, abbiamo una foresteria con una cucina in usufrutto, cioè non abbiamo una mensa, ognuno si può cucinare per sé. Certo. In comunità. E oltre a quella, in piazza dell'abbazia c'è un'altra struttura, si chiama Vina Enrichetta, diciamo che fa funzioni, brutto dirlo, ma da resti, nel senso che nelle stanze c'è possibilità anche di cucinare nelle stanze, oppure sempre in una cucina in usufrutto, facciamo ospitalità, ecco appunto. Bene, io la ringrazio Boiocchi, lo ripeto, abbazia di Santa Maria di Finalpia, questa volta l'ho detto giusto, a Finale Ligure in provincia di Savona, e qui abbiamo scoperto che si produce miele, i derivati di miele e anche cosmetica. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio tra abbazie, abbiamo detto monasteri e conventi, ma ora diciamo che facciamo una sosta molto particolare, perché ormai anche in questo mondo ci si sta organizzando e sicuramente internet è entrato appunto anche in questi luoghi di preghiera. Bene, dicevo, si sta organizzando perché? Perché ci sono dei centri che diciamo vendono prodotti di tutti i monasteri. E allora ne parliamo con Claudio Mita. Buongiorno Mita. Buongiorno a tutti. Allora, lei diciamo che è il responsabile di questo sito che si chiama Bottega del Monastero, se non erro. Esatto, sì. Ecco, mi racconta, voi vendete i prodotti di abbazie e monasteri, addirittura anche stranieri online. Sì. Ma questo come è nato? È nato per volere appunto delle abbazie, dei monasteri, oppure è nato per un'iniziativa privata? È nato per un'iniziativa privata. C'è da dire che noi siamo una cooperativa sociale di tipo B, quindi tutte le nostre iniziative hanno uno scopo sociale. Il primo scopo è quello di creare posti di lavoro, diciamo, per ragazzi in difficoltà. E questo mondo dei monasteri ci ha attratto da subito, in quanto ci interessava un po' la cura che i monaci mettono nel lavoro quotidiano, nel loro rapporto con la natura, con i prodotti. E copiarlo un po' per quello che è poi la nostra produzione, perché prima di tutto noi siamo produttori di pasta fresca e piadina, ecco. Beh, quindi siete dalle mie parti, siamo in Romagna, mi sembra. Siamo di capire. In Romagna, Faenza. Sì. Siete a Faenza, quindi proprio quasi a casa mia. Bene, volevo chiederle, allora ci racconta un po' quali sono i prodotti e di quali monasteri voi vendete, magari più significativi, anche più particolari, ecco. Sì, allora diciamo che innanzitutto cerchiamo di dare più visibilità a quei monasteri che non hanno la possibilità di vendita online, quindi per esempio parliamo delle monache di Vittorchiano e le loro marmellate, oppure dei monaci benedettini della Cassinazza vicino a Milano, che sì, in Italia producono birra. Sì, li abbiamo già sentiti. Poi raccogliamo, diciamo, dal Belgio tutte le birre trappiste, altri prodotti come il miele di Finalpia che avete appena sentito, i prodotti di Camaldoli. Quindi ecco, i prodotti di Camaldoli sono soprattutto prodotti farmaceutici, sono unguenti per le scottature, sì, ed altro, ma quindi c'è anche miele, se non ero, a Camaldoli. Sì, c'è anche miele, però non prodotto direttamente da loro. Diciamo che la loro produzione prevalentemente si ferma alla cosmesi, quindi alle creme di bellezza, ma anche alla liquoristica. Hanno dei liquori abbastanza famosi come l'Aurus 48, che è una ricetta, se non erro, di 300 anni fa, insomma si trovano tracce nella loro biblioteca già da 300 anni. Sì, io invito tutti ad andare a visitare Camaldoli, il monastero di Camaldoli, e magari, visto che sei in zona, anche quello della Verna, perché il monastero di Camaldoli è veramente uno spettacolo con questi monaci vestiti di bianco in questo posto meraviglioso del Casentino, sicuramente dei territori più belli d'Italia, meno battuti dal turismo. Senta Mita, ma voi avete nel vostro portafoglio prodotti anche vino? Sì, abbiamo le due eccellenze, direi, dell'Alto Adige, che sono l'Abbazia di Novacella e l'Abbazia di Murigries, con tutta la loro gamma di vini, sia bianchi che rossi, che sono tra l'altro tra i migliori vini italiani che abbiamo. Anche questa è sicuramente un posto da andare a visitare per la bellezza, per una biblioteca di incunaboli unica al mondo. Senta Mita, ci dica, c'è qualche altro prodotto magari al sud, di qualche monastero del sud siciliano, in Sicilia, in Sardegna? Sinceramente ancora no, abbiamo avuto qualche contatto con qualche monaca siciliana, ma non, purtroppo si tratta ancora di piccoli monasteri che non hanno l'autorizzazione per la vendita fuori porta, diciamo. Più che altro si tratta di una vendita interna, e quindi per esempio qualcuno fa il couscous dolce, una cosa, sì, improbabile. Dunque, questo qui si chiama Couscous Su, esattamente, è della chiesa di San Giorgio ad Agrigento, E sotto Natale c'è questo couscous dolce, perché è una specialità, è una vera specialità del territorio. Io consiglio sicuramente un assaggio, perché ne vale la pena. È un prodotto davvero unico, e magari voi lo aveste nel portafoglio, però purtroppo viene prodotto solo sotto Natale e poi è deperibile. Ci sono molti luoghi di suore di clausura dove si assaggiano dei prodotti particolari di pasticceria. Voglio ricordare anche un altro posto, a Loro Piceno, esistono anche lì suore di clausura che fanno dei dolcetti, anche questi davvero importanti. Poi a Palermo c'è un altro posto di suore di clausura dove fanno dolci siciliani altrettanto eccellenti. Quindi sono un grande esperto di monasteri, di prodotti di monasteri, per averli assaggiati più volte. Grazie Mita. Ora andiamo da padre Stefano Piva, importante. Perché? Perché ora lo scopriremo, qui si fa agricoltura biologica al Monastero dell'Incarnazione a Poggio del Sasso, in provincia di Grosseto. Padre, mi dica subito una cosa, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Voi agricoltura biologica la fate, diciamo, come avete cominciato a fare negli ultimi anni, oppure è un fatto storico del vostro monastero? Ma guardi, parlare di storia del nostro monastero, questa parola si può usare solo in senso analogico, perché il nostro monastero esiste soltanto da pochissimi anni e lo stiamo anche costruendo materialmente. Ah. Per cui la nostra attività è derivata dal fatto che abbiamo avuto in donazione alcuni oliveti e abbiamo subito cominciato a coltivarli in un modo assolutamente naturale. E poi piano piano abbiamo avuto la certificazione biologica. Senta padre, ma ha detto lei che esiste da poco, quindi l'avete costruito voi? Sì, lo stiamo costruendo a pezzi. Ah, finora c'è soltanto un lato nel quale abitiamo dal 2005, piano piano stiamo costruendo le altre parti del monastero. Quindi diciamo che è il monastero più nuovo in assoluto che esista nel paese, questo? Diciamo uno dei più nuovi, sì, sicuramente. Senta, ma come mai l'idea di costruire e non andare magari in un monastero già esistente, che ce ne sono molti magari che sono stati abbandonati? Ma guardi, noi siamo capitati qui in Maremma grazie a una donazione di un terreno, e siccome qui nella zona monasteri antichi non ce n'erano, per poter vivere la nostra vita, praticare l'ospitalità, vivere secondo lo stile benedettino, l'unica soluzione era quella di costruirne uno. Senta padre, ma voi siete monaci benedettini? No. Sì, diciamo, seguiamo la regola di San Benedetto. Ho capito. Ecco, allora arriviamo alle produzioni, le produzioni biologiche. Voi ne fate diverse, sì, se non erro. Noi abbiamo fondamentalmente tre prodotti, l'olio, lo zafferano e i peperoncini. Quindi diciamo che sono di recente produzione, questo è 2005, quindi siete partiti... Sì, diciamo il peperoncino e lo zafferano lo coltiviamo da 3 anni. Ah, quindi è recente. Ecco, voi vendete, cosa vendete? Direttamente, immagino? No, direttamente. No, perché qui questo nostro monastero, praticamente non essendo un luogo turistico, non è molto frequentato. Ah. Noi abbiamo come nostri clienti dei negozi, dei ristoranti, abbiamo iniziato anche a fare una piccola esportazione in Giappone. Addirittura? Sì, sì, sì, di peperoncini. Di peperoncini. Quindi diciamo che vi state muovendo molto bene, mi sembra di capire. Piano piano, le nostre sono piccole produzioni, anche perché noi monaci siamo soltanto 6. Non abbiamo personale, tutta la produzione viene fatta direttamente da noi, con le poche possibilità anche economiche che abbiamo, per cui diciamo le quantità non sono enormi, però piano piano cominciamo a svilupparci. Senta, l'olio, gli oliveti, quale cultivar voi avete? Avete una sola oppure un più? No, diciamo noi abbiamo un 50% di frantoio, un 45% di leccino, e l'altro 5% è moraiolo e altre piccolissime varietà. Ho capito. E un'ultima cosa volevo chiedere, lo zafferano rende? Lo zafferano, diciamo così, che rende se non si conta la manodopera, perché la manodopera è la nostra, certo, perché certo, altrimenti non ci sarebbe un ritorno, perché richiede veramente un impegno quotidiano molto concentrato in certi periodi, e poi chiaramente i prezzi che vengono praticati per questo nostro zafferano, che viene venduto in stimmi e non macinato, non è chiaramente paragonabile allo certo zafferano che si ritrova a livello commerciale più diffuso, ecco. Senta padre, un'ultima cosa, chi volesse comprare il vostro olio, lo zafferano, il peperoncino, cosa deve fare? ma può, diciamo così, contattarci accedendo anche al nostro sito www.monasterodisiloe.it. Bene, io la ringrazio, grazie Padre Stefano Piva, lo ripeto, Comunità Monastica di Siloe, Monastero dell'Incarnazione a Poggio del Sasso, provincia di Grosseto. Bene, ora andiamo al convento di Monte Carmelo da Padre Federico. Buongiorno Padre Federico. Ah, buongiorno, buongiorno a lei, alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Senta padre, ci racconti cosa le vostre produzioni, quali sono? Le nostre produzioni sono in particolare il vino. Produciamo un vino bianco che si chiama Vermentino, è una DOC, Vermentino Riviera Ligure di Polente, in Loano si trova nel Ponente Ligure. Sì. Questo è un po' il fiore all'occhiello delle nostre produzioni. Quindi vino, voi avete quindi vigne, quindi lo producete voi direttamente, anche la vinificazione la fate voi in convento? E abbiamo il vigneto, non è un vigneto di dimensioni enormi, però è un vigneto che dà questo Vermentino, è un bianco, un vino da tavola che viene bene nel Ponente Ligure. Certo. È apprezzato dai nostri clienti. Ecco. Si può comprare direttamente o anche voi avete un sito dove comprare? Ma noi abbiamo un punto vendita qui presso il nostro convento, dove si può acquistare questo prodotto e gli altri prodotti della nostra azienda agricola. Ecco, quali sono gli altri prodotti? Ce li racconti? E gli altri prodotti sono il miele, marmellate, confetture e l'olio. Quindi una bella produzione, insomma. E l'olio cos'è? Olive taggiasche, immagino? Esatto, è una varietà taggiasca, è scritta al registro DOP della regione Liguria. È un olio molto, molto leggero, molto, molto rinomato. Molto profumato. Sì, la marmellate quali sono? Quale tipologia di marmellate producete voi? Allora, noi produciamo marmellate e confetture, che non sono esattamente la stessa certo. cosa. Per marmellate si intende normalmente quelle di agrumi, quindi arance, limoni, pompelmi. E confetture sono tutte le altre, albicocche, ciliegie. E noi produciamo entrambi i tipi, i gusti classici come anche delle novità nostre, facciamo qualche esempio, ananas al mandarancio, kiwi e pere, arance e mirtilli, insomma combinazioni che… Interessanti, abbiamo. Anche da servire con i formaggi quindi? Sì, molti ce lo chiedono proprio per questo tipo di uso, ecco. Bene, io ringrazio Padre Federico, lo ripeto, il convento di Monte Carmelo Loano, abbiamo sentito che c'è un negozio di vendita diretta con dei prodotti molto interessanti, abbiamo sentito anche il vino Vermentino che in questo momento sicuramente ha un grande successo questa tipologia di vino. Il gastronauta. Siamo sempre in viaggio, cari gastronauti, tra monasteri, conventi e abbazie, però come prima abbiamo parlato del vino da messa, che fa parte sicuramente di questo mondo, oggi parleremo poi anche del vin santo. Perché? Perché ci sono notevoli differenze, anzi non ha niente a che vedere il vino da messa col vin santo. Magari qualcuno può pensare che il vin santo sia la stessa cosa con cui viene celebrata la messa. È tutt'altro e ora scopriremo anche perché si chiama così e dove viene anche prodotto. Allora abbiamo con noi Alessandro Poli dell'Associazione Vignaioli del Vin Santo Trentino. Buongiorno Poli. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora Poli, ci vuole raccontare perché io chiamo il Trentino, gli amici toscani non se ne abbiano perché anche loro producono il vino, il vin santo senza la O, e poi c'è anche in Umbria qualcuno che produce il vin santo. Non me le vogliono che non parlo del vin santo toscano che è famosissimo, per carità. Vado in Trentino perché è altrettanto famoso per un motivo molto semplice, che a quanto pare l'origine di questo nome sia nata proprio a Trento, durante il Concilio di Trento. Io chiedo a Alessandro Poli magari se lui mi aggiunge qualcosa a questa, diciamo, a questa citazione che io ho fatto. Ma il vino santo trentino è sicuramente un prodotto di lunga storia, insomma, si hanno notizie proprio durante il Concilio di Trento tramite i relatori ufficiali che erano Michelangelo Mariani e Pincio Giano Piro, in cui parlavano proprio del vino santo trentino. ma da noi anche la, diciamo, la, un po' la differenza anche col vino santo toscano o con altri vini santi è proprio data dal lungo appassimento. E l'uva che noi stiamo raccogliendo adesso, praticamente in questo periodo, e quest'anno è una vendemmia un po' anticipata, altrimenti siamo sempre verso la fine di settembre, i primi di ottobre, e rimane dopo sui, sui gratici fino a Pasqua, fino alla, alla Settimana Santa. E il nome vino santo sembra proprio che derivi sostanzialmente anche da questo, da questa permanenza fino a Pasqua, fino alla Settimana Santa. Ecco, io ne aggiungo un'altra interpretazione proprio del Concilio di Trento, che sembra che fosse, venisse servito questo vino, e un prelato greco, nel vedere questo vino, pronunciasse Xante, Xante, Xante, che è un'isola appunto in, in Grecia, dove viene prodotto un vino che aveva un colore che somigliava molto a quello appunto che veniva servito, e sembra che da quel momento appunto abbia preso nome vino santo. Bene, queste sono leggende, come sono sempre attorno a molti prodotti. E allora diciamo, Poli, che questo vino santo appunto è per questa origine, ma non è che mai viene servito alla messa, durante la messa? Assolutamente, può essere servito in un vino, secondo me, che non ha necessariamente bisogno di abbinamenti, insomma. Può essere consumato da solo, insomma, un vino molto molto dolce. Diciamo un vino da meditazione, insomma. Un vino sicuramente da meditazione, per usare un termine. E visto che usiamo, parliamo di monasteri, conventi, abbazie, la parola vino da meditazione, secondo me, è perfetta. Bene, Poli, l'ultima cosa. Quanti produttori siete che fate parte dell'Associazione Vino Santo Trentino? Noi abbiamo un'associazione proprio di vignaioli, siamo in sei vignaioli che fanno questo vino. La produzione di nicchia è abbastanza bassa, proprio perché è fatta con le uve Nosiola, che ecco, è l'unico vitigno autoctono trentino, e proprio con questo lungo appassimento che si protrae fino a Pasqua. Le uve vengono attaccate dalla botritis, dalla muffa nobile, che ne consumano in parte l'acqua, e dopo da tutte queste peculiarità al vino finale, insomma, che di norma dopo viene comunque invecchiato, fa un passaggio in legno, insomma, viene, i vini che ci sono in, che vengono proposti adesso partono dalle vendemmie dal 98, 99, 2000, insomma, sono vini comunque molto molto riposati, insomma, e molto interessanti. Bene. Grazie a Poli. Ora continuiamo a parlare di prodotti che hanno a che fare appunto con i monasteri. E ora andiamo a Roma, andiamo da Maria Fermanelli, che è amministratore dell'azienda Cose dell'Altro Pane. Perché abbiamo chiamato Maria Fermanelli? Perché utilizza i forni del monastero benedettino di San Giovanni Battista a Roma. Buongiorno Maria. Buongiorno a voi. Cosa hanno di particolare questi forni che voi utilizzate appunto per così? Sono particolari, sono antichi, sono a legna? L'iniziativa è stata di utilizzare questi locali di questo vecchio forno, che erano andati in disuso, perché il monastero nel dopoguerra aveva panificato anche per 200 persone, poi nella crisi che stanno attraversando un po' tutti i monasteri di vocazioni, questi forni erano andati in disuso, in più avevano bisogno di essere messi a norma, gli investimenti erano cospicui, e quindi le monache avevano ristretto la loro attività prendendo un nuovo forno, ma utilizzando altri locali. Con un gruppo di famiglie laiche, così, che avevamo la consuetudine di frequentare questo monastero, avevamo avuto i figli in scuola qui, così abbiamo saputo di questa cosa, tra di noi circolava l'idea di creare un'attività artigianale che producesse del cibo senza glutine per celiaci, e quindi parlando con l'abbadessa, ecco, considerate che il monastero è un monastero benedettino di clausura, cioè abbiamo cominciato a cercare di capire se era una strada percorribile. Ci siamo riuscite, abbiamo presentato un progetto, oltretutto nell'ambito dei finanziamenti della Bersani per le aree periferiche. Questo progetto è stato molto ben visto e insomma è stato finanziato, è rientrato nelle graduatorie. E a quel punto ci siamo guardate negli occhi, abbiamo detto che facciamo, quindi, proviamo, cioè, e quindi voi abbiamo producete, avviato questa quindi voi azienda. Producete, quindi pane per celiaci? Pane, dolci, pasta, però tutto solo ed esclusivamente per celiaci, quindi questi laboratori sono stati completamente ristrutturati e vengono dedicati esclusivamente al senza glutine. Abbiamo un'autorizzazione ministeriale perché queste produzioni sono disciplinate da un decreto legge, dal decreto legge 111. Bene, no? Senta Maria, dove si possono comprare i vostri prodotti? Allora, i celiaci godono di una rimborsabilità attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e quindi questa rimborsabilità è spendibile prevalentemente nelle farmacie. Da qualche anno, nel clima di liberalizzazioni, questa rimborsabilità le varie regioni le stanno concedendo anche a dei negozi specializzati, quindi diciamo che noi necessariamente distribuiamo attraverso questi canali, perché per l'appunto i nostri prodotti, pur essendo fatti a mano, sono rimborsabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Bene, grazie Maria Fermanelli. Cose dell'altro pane, è appunto il monastero benedettino di San Giovanni Battista a Roma. Bene, chiudiamo questo viaggio attraverso i monasteri, appunto le conventi, le abbazie, con un personaggio materano, Antonio Nobile. Buongiorno Nobile. Buongiorno. È un personaggio, diciamo, molto noto nel mondo del cibo e del vino, e in particolare in Basilicata. Perché? Perché Antonio Nobile sta mettendo a punto un progetto che riguarda appunto monasteri e i conventi della sua regione, credo. Allora, Nobile, velocemente, abbiamo solamente 1:30. Cosa ci può dire? Cosa ci puoi dire in base a questo? Sì, l'idea è quella di mostrare i prodotti dei conventi, sia a Matera ma anche in un paese vicino che è Montescaglioso, c'è una splendida abbazia dell'anno 1000, una delle prime 10 in tutta Italia, che è proprietà del comune ed è il luogo ideale dove poter mostrare un po' quella che è la produzione del cibo dei conventi. Insomma, mi sembra di capire, tu vuoi fare una rassegna di tutti questi prodotti in questa abbazia, vuoi lanciare questo appello, se non erro. Sì, sì, sì. Allora, lo lanciamo da, diciamo, anche come gastronauta, come Radio 24, chi appunto è interessato a questo discorso di Antonio Nobile, che potrebbe essere molto interessante avere una panoramica di tutti i prodotti raccolti appunto in un'abbazia della Basilicata, e magari si faccia vivo con noi, che noi poi penseremo a smistare Antonio Nobile, diciamo, chi è interessato appunto a portare i suoi prodotti per una grande rassegna che riguarda la produzione di questi luoghi, che sono luoghi di meditazione e di preghiera, ma come abbiamo visto è molto variegato, ormai c'è vino, birra, olio, peperoncino, zafferano, pane, insomma si può trovare di tutto, e quindi riteniamo che anche la qualità sia di alto livello. Più volte io ho assaggiato molti di questi prodotti in giro per l'Italia, specialmente anche, come dicevo prima, dove ci sono i conventi di clausura con queste suore che fanno questi prodotti straordinari, e devo dire che sono davvero eccellenti e non hanno niente da invidiare a quelli delle grandi pasticcerie. Bene, abbiamo concluso questo viaggio, io vi do appuntamento per la replica di questa trasmissione domani alle 10, sempre su Radio 24. Vi do appuntamento alle 12:15 col Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno con La Pillola alle 18:30. Buon weekend a tutti dal vostro Gastronauta.